Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Cala l'occupazione nelle grandi imprese del 2%, cassa integrazione ai massimi dal 2000, l'edilizia teme per 250.000 lavoratori. Intercettazioni essenziali, dice il procuratore generale della Cassazione, il presidente denuncia efficienza della giustizia italiana inferiore a quella africana. Abbiamo prove in Italia di un traffico di organi di minori, la denuncia è del ministro dell'interno, Maroni. Il campionato partirà con 15 minuti di ritardo e la decisione dei calciatori per protesta contro la squalifica di Mannini e Possanzini. Faremo ogni passo. Ma il Brasile ci è amico, così Berlusconi sul caso di Cesare Battisti. Una buona giornata da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Apriamo questa edizione della GR Extra Large con dati negativi per quanto riguarda la nostra economia, ma soprattutto per quanto riguarda il fronte occupazionale. Il fronte occupazionale delle grandi imprese. Sono i dati peggiori dal 2002, un calo del 2,1%, record anche per quanto riguarda il ricorso alla cassa integrazione. Ci racconta tutto Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Dati non certo confortanti per le grandi imprese oggi dall'Istat. Il capitolo è quello relativo all'occupazione. Secondo l'Istituto di Statistica, a novembre 2008 si è registrato un meno 2,1% al netto della cassa integrazione, dato questo che è il calo più ampio registrato dallo stesso periodo del 2002. Le imprese oggetto dei dati sono quelle con più di 500 addetti. Tra i settori maggiormente colpiti vi sono quello energetico con un meno 4% e poi le costruzioni, dove si registra una diminuzione del 3,1%. In controtendenza i settori dell'elettronica di precisione e quello della produzione dei mezzi di trasporto. Diminuiscono dunque gli occupati, contestualmente aumentano i lavoratori in cassa integrazione, più 30 ore ogni 1000 lavorate rispetto a novembre 2007. Ecco Vincenzo, tu citavi il settore dell'edilizia, delle costruzioni come uno di quelli maggiormente a rischio e tu tra l'altro hai con te appunto un ospite. Sì, è così, dicevamo, uno dei settori che più sta pagando in termini occupazionali è quello delle costruzioni. Proprio oggi l'Associazione Nazionale Costruttori Edili ha presentato un'indagine straordinaria che traccia un quadro più che preoccupante per il 2009. E allora abbiamo accanto a noi il presidente dell'ANCE Paolo Buzzetti. Presidente, stimate solo nel vostro settore un calo di circa 250.000 occupati. Buongiorno. Sì, stimiamo un calo di 250.000 occupati che fanno parte dei 600.000 in generale indicati in tutti i settori da Confindustria. Aggiungo che prevediamo un calo del circa 7% degli investimenti in costruzione per il 2009, con una punta purtroppo nel Veneto, dove abbiamo addirittura il meno 10% degli investimenti in costruzioni. Quindi è un dato di grande preoccupazione se non si interviene immediatamente con dei provvedimenti che peraltro abbiamo anche proposto. Queste le parole dunque del presidente dell'ANCE Buzzetti e da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo per questi aggiornamenti, sono dati che confermano lo stato di crisi nel quale versa l'economia italiana, come del resto quella degli altri paesi. Ma cosa stanno facendo i governi? Beh, la Germania ha messo in campo fino a questo momento circa 80 miliardi di euro, la Spagna in tre mesi è riuscita a far partire un piano di opere cantierabili con 8 miliardi di euro disponibili. La Francia, nonostante lo sciopero generale di ieri, ha dato il via libera a un piano di rilancio da 26 miliardi e la Gran Bretagna ha approvato solo per il settore auto aiuti per 2,3 miliardi di sterline. In Italia nel frattempo si discute ancora sugli incentivi per l'acquisto di nuove vetture. Valeria De Rosa ha chiesto all'economista Giacomo Vaciago di mettere a confronto quel che stanno facendo i diversi governi. Due anni fa è iniziata una crisi finanziaria globale. L'anno scorso è iniziata una recessione economica, quest'anno siamo in piena crisi, oggi si è bloccato l'investimento e quindi il futuro. I governi faticano a capire questa successione. Al momento chi più chiaramente ha capito la dimensione storica e la successione dei problemi è il governo americano. I governi, un po' tutti, il nostro credo che sia solo il peggiore, ma tutti hanno problemi a mettere a fuoco i tre orizzonti temporali della crisi che viviamo. L'auto è la cosa più grave in questo momento perché soffre delle perdite di reddito dei consumatori di 2 anni fa. Soffre perché in recessione i beni di consumo durevoli, più della carne e del pane, soffrono. E soffre perché c'è un enorme fabbisogno di investimenti in nuovi modi di fare automobili. La sofferenza dell'auto e dell'elettrodomestico è primo semestre 2008, è un anno fa. Bastava parlarci con la Fiat, con la Merloni e con l'Indesit per sapere che avevano problemi. Il fatto che noi adesso abbiamo bisogno ancora di 10 giorni conferma che noi abbiamo dormito un anno. Bastano un po' di soldi per indurre l'italiano che ha una macchina vecchia e inquinante a correre a rinnovarla? Spero di sì. Quanto questo basti a dare un futuro alla Fiat, ho seri dubbi, perché chiaramente il futuro della Fiat lo decidono gli investimenti. Parliamo ancora di lavoro, ma di quelle persone che un posto fortunatamente ce l'hanno, ma anche in questo caso c'è un però. Si tratta infatti delle donne che hanno regolarmente un lavoro, ma che guadagnano meno dei colleghi maschi a parità di mansioni. So signing this bill today is... Le parole sono di Barack Obama, voce che avrete in qualche modo imparato a riconoscere, che ieri ha attaccato Wall Street e ha definito vergognosi i bonus distribuiti nel 2008 ai super manager della finanza americana. Ma il neopresidente in questa occasione ha anche firmato la sua prima legge. E si tratta di un provvedimento, come anticipavamo, che promuove la parità salariale fra uomo e donna, ispirato alla vicenda di Lilly Ledbetter, ex dipendente della Goodyear, che a parità di mansioni con i colleghi maschi scoprì dopo 19 anni di lavoro di essere pagate il 40% in meno. In America, in molti settori, le donne ricevono il 23% in meno dello stipendio dei loro colleghi maschi. E in Europa, Valentina Furlanetto ci spiega che cosa succede da noi. AAA, cercasi impiegata, puntuale, efficiente, da pagare meno di un collega uomo. Annuncio ufficialmente discriminatorio, ma nella pratica è ciò che accade. Le donne in America come in Europa, a parità di mansioni, vengono pagate meno degli uomini. La differenza di retribuzione è in media del 15%, secondo recenti dati della Commissione europea. In Italia sale al 16%, con un picco del 18% fra le professioni scientifiche. Recentemente, infatti, la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia per la violazione di un articolo del trattato su parità di retribuzione fra i sessi. Condanna che ha scatenato il dibattito, però esclusivamente sull'età pensionabile. Nel nostro paese, secondo uno studio Union Camere, lo scarto tra le remunerazioni paradossalmente aumenta al crescere dell'età, del livello di istruzione e degli anni di servizio. Se le differenze salariali sono del 7% nella fascia fino a 30 anni, superano il 30% fra i 50 e i 59 anni. Fra chi possiede un diploma di scuola media inferiore, la differenza di stipendio con il collega maschio è del 13%, ma sale al 30% per chi è in possesso di una laurea. E ancora, con 2 anni di servizio, la differenza in busta paga è del 22%, ma sale al 32% con oltre 30 anni di anzianità. Che si tratti poi di donne in carriera o operaie, il risultato non cambia. Secondo Federmanager, se la retribuzione media del dirigente italiano è di 95.000 euro lordi l'anno, per le dirigenti donne si ferma a 83.340. Vi è qualche sottile differenza a livello territoriale, con una situazione più rosea a nord-ovest e di settore. Ad esempio, nell'industria le differenze sono meno rilevanti rispetto al commercio, al turismo e ai servizi. Ma di base non conta la bravura e nemmeno l'anzianità, conta il sesso. Se sei femmina, guadagni di meno. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Accennavamo prima appunto alla prima legge firmata da Barack Obama, ma intanto la sua amministrazione si sta muovendo anche su un fronte, su un altro fronte, su quello del Medio Oriente. Naturalmente, nella zona c'è il mediatore americano, il nuovo mediatore americano Mitchell, del quale vi abbiamo raccontato ieri e questa mattina nei nostri giornali radio. Ebbene, sentiamo come procede il suo giro di incontri. Già primo ministro israeliano dal 1996 al 1999, Benjamin Netanyahu, detto Bibi, è noto per le sue posizioni intransigenti sulla sicurezza. Basti ricordare che per protesta contro il piano di ritiro da Gaza attuato da Ariel Sharon, Bibi si dimise dal suo incarico di ministro delle finanze. Mitchell incontra il capo dell'opposizione perché potrebbe diventare un uomo chiave nell'arena politica israeliana a partire dalle prossime settimane. Secondo i sondaggi, infatti, Netanyahu sembra lanciato verso la vittoria nelle elezioni politiche del 10 febbraio. In un'intervista alla radio, Netanyahu ha precisato che, a differenza del premier uscente presidente Olmert, lui si opporrebbe allo sgombero di coloni dalla Cisgiordania, anche nel contesto di accordi di pace con l'autorità nazionale palestinese. Netanyahu ha guadagnato consensi dopo l'offensiva nella striscia di Gaza a scapito di Kadima, il partito di Tzipi Livni. Mitchell è un negoziatore d'esperienza, dal buon carattere e molta pazienza, ma non sarà facile mediare con un falco come Netanyahu sulla scena politica. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E sulla vicenda di Gaza c'è stato ieri a Davos, dove si sta svolgendo il World Economic Forum, uno scontro tra il premier turco Erdogan e il presidente israeliano Shimon Peres. Ne parleremo più avanti nel nostro spazio, quando ci occuperemo appunto del World Economic Forum. Ora invece ci occupiamo di calcio, perché partiranno in ritardo domani e domenica i campionati di Serie A e B di 15 minuti per la protesta dei calciatori contro la sentenza del Tribunale Amministrativo dello Sport che ha squalificato per un anno Daniele Mannini, ex giocatore del Brescia e ora del Napoli, e Davide Possanzini, giocatore del Brescia, per essersi presentati in ritardo al test antidoping nel dicembre 2007 dopo la partita Brescia-Chievo. Allora, Dario Ricci, spiegaci un po' questa vicenda. Buongiorno, caso sicuramente complicato quello dei calciatori Mannini e Possanzini, ma va subito chiarito che non si tratta di un caso di doping conclamato, ma della violazione di norme procedurali. In particolare la norma del regolamento della WADA, dell'Agenzia Mondiale per la Lotta al Doping, prevede che dal momento della comunicazione di essere stati chiamati al controllo antidoping i calciatori non siano mai persi di vista dal delegato federale o dal medico incaricato del prelievo. In questo caso questa norma sarebbe stata violata, cioè l'incaricato non avrebbe potuto seguire con la dovuta e necessaria continuità i due calciatori e quindi la sanzione. Si tratta quindi di una questione procedurale. Per capirci, come se in una piazza completamente vuota e con i parcheggi delimitati fermassimo la nostra automobile a cavallo appunto delle linee che delimitano due parcheggi affiancati. Non intranceremmo il traffico né creeremo particolari problemi, visto appunto che la piazza è vuota, ma un vigile potrebbe sanzionarci comunque con una multa. È quello che tutto sommato è caduto a Mannini e Possanzini. Abbiamo chiesto a Mattia Grassani, l'avvocato proprio che ha difeso Daniele Mannini di fronte al TAS di Losanna, quali possono essere ora i successivi sviluppi della vicenda. Diciamo che ci sono due ulteriori percorsi. Il primo, un'impugnativa per nullità, quindi per vizi di forma del lodo, avanti alle corti civili svizzere. E il secondo, un ricorso alla Corte Europea del Lussemburgo per quanto riguarda la violazione di diritti fondamentali, perché va bene accertare la violazione, va bene sanzionare la violazione, ma la sanzione deve essere proporzionata comunque alla violazione. Da allora un ritardo di 25 minuti che poi non ha sortito nessun tipo di positività non può essere trattato da un punto di vista sanzionatorio come l'atleta che assume volontariamente sostanze dopanti per alterare la prestazione. Grazie allora al nostro Dario Ricci. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Ci sono evidenze di traffico di organi di minori in Italia, a dirlo il ministro dell'Interno Roberto Maroni durante l'assemblea annuale dell'UNICEF, ne parleremo alle 13.45. Cala l'occupazione nelle grandi imprese, meno 2,1% al netto della cassa integrazione nel mese di novembre, la flessione più consistente dal novembre 2002. Parallelamente c'è stato il boom di ricorsi alla cassa integrazione, in questo caso è il primato dal 2000. Inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, dice le intercettazioni telefoniche costano ma sono strumenti di indagine essenziali. Il primo presidente della Cassazione, Vincenzo Carbone, punta il dito sui processi civili. In Italia sono più lenti che in Africa, ma parla anche di intercettazioni. Il problema delle intercettazioni. Il principale problema risiede nella loro abnorme e poco giustificata reiterazione nel tempo. Dovrebbero essere vietate le proroghe se nel periodo inizialmente stabilito non si sono raggiunti risultati apprezzabili, tranne casi eccezionali rigorosamente motivati. Risulterebbe poi utile l'istituzione di un archivio riservato, accessibile sia dal PM che dal difensore. Andrebbe inoltre contrastata la prassi di trascrivere nei provvedimenti giudiziari pagine e pagine di inutili intercettazioni, invece di chiamarle per relazione, lasciandole riservate. le sole parti ritenute necessarie, motivando la rilevanza in relazione al processo in corso. Berlusconi sul caso Battisti: non lasceremo nulla di intentato sul fronte giuridico. La mancata estradizione, precisa il Premier in una nota, non deve però danneggiare gli eccellenti e amichevoli rapporti bilaterali fra Italia e Brasile. Partiranno con 15 minuti di ritardo le partite di campionato domenica prossima. La decisione è stata presa dalle associazioni di calciatori dopo la squalifica per un anno di Mannini e Possanzini, arrivati in ritardo ad un controllo antidoping. Notizia di poco fa: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulle quote latte presentato dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Luca Zaia. Parliamo di giustizia adesso, perché come vi dicevamo nei titoli si è aperto l'anno giudiziario in Cassazione. Il primo presidente, Vincenzo Carbone, punta sull'inefficienza del sistema giudiziario italiano, mentre il procuratore generale parla anche di intercettazioni. Paola Cavadi, allora, un quadro su quello che è emerso. Sì, buongiorno. In effetti la giustizia italiana, sono tutti d'accordo, non gode di un'ottima salute, e per questo da qui, dalla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, si leva una voce all'unisono perché si procede a una riforma il più possibile condivisa. Il primo presidente della Suprema Corte, Vincenzo Carbone, lo avete ricordato, ha puntato il dito contro il problema degli enormi ritardi dei processi che vedono l'Italia in una pessima posizione nella graduatoria stilata dalla Banca Mondiale. Ma sentiamo Carbone. Nell'ultimo rapporto del 2009 in tema di processo civile, i paesi europei sono tra i primi 50, la Spagna è l'ultima al 50° posto. Purtroppo l'Italia è al 156° posto su 181, dopo Angola, Gabon, Guinea, Sao Tomé e prima di Djibouti, Liberia, Sri Lanka e Trinidad. Non possiamo andare avanti così. Tempi processuali infiniti che, ha ricordato il procuratore generale Vitaliano Esposito, sono costati all'erario quest'anno oltre 32 milioni di euro in indennizzi ai cittadini, in sostanza il 19% in più dell'anno scorso. Ma qui in Cassazione si è parlato ovviamente anche di intercettazioni, all'indomani della presentazione dell'emendamento del governo al disegno di legge in discussione alla Camera. Avete ricordato nei titoli la posizione di Carbone, che ha chiesto di limitare le trascrizioni inutili. E a questo proposito il guardasigilli Alfano ha difeso l'iniziativa dell'esecutivo, sostenendo la necessità di conciliare le esigenze investigative con il principio della dignità della persona, troppo spesso, ha detto, coinvolta in una insopportabile gogna mediatica. Intercettazioni che restano però per il procuratore generale Esposito strumenti essenziali per la lotta alla criminalità. Sul tema è intervenuta anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che ha definito un errore quello del governo di azzerare nella sostanza uno strumento fondamentale per le indagini. E da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Paola, e noi restiamo a Roma e restiamo a parlare di intercettazioni e di giustizia, perché questa mattina le audizioni di Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris al COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, presieduto da Francesco Rutelli, in diretta da Palazzo San Macuto. Paola Nania. Paola. Sì, buongiorno. L'audizione dell'ex PM di Catanzaro Luigi De Magistris è terminata più o meno 10 minuti fa, uscendo da Palazzo San Macuto. De Magistris non ha voluto rilasciare alcun tipo di dichiarazione, non c'è quindi una conferma ufficiale sul contenuto e su come sia andata l'audizione di Luigi De Magistris, che comunque è stato convocato dal comitato che vigila sui servizi segreti per chiarire con quali modalità abbia consentito all'ex consulente Genchi di acquisire tabulati telefonici nell'inchiesta. Why not? In questo momento è iniziata l'audizione dell'ex consulente Gioacchino Genchi, che dovrà rispondere alle accuse che sono contenute nella relazione dei carabinieri del ROS, che è proprio stata sottoposta al COPASIR. Secondo i carabinieri, il consulente ha consentito, ha analizzato numeri telefonici legati a parlamentari e funzionari dei servizi segreti che per legge dovrebbero essere tutelati da particolari misure. Per ora da Roma è tutto. Grazie Paolo Anania. Tu citavi i servizi segreti, ma di servizi segreti si sta parlando molto in quelle ore, non di quelli italiani ma di quelli francesi. Sì, perché avrebbero avuto un ruolo nella fuga in Brasile di Cesare Battisti. A sostenerlo è lo stesso ex terrorista, un'ipotesi che anche il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica giudica probabile. E su questa vicenda oggi è intervenuto con una nota il presidente del Consiglio, che dice: nessuna via sarà lasciata intentata per ottenere l'estradizione della pluriomicida. Berlusconi aggiunge che comunque non c'è alcun ombra sugli ottimi rapporti con il Brasile. Ma come sono invece a questo punto i rapporti con la Francia su questa questione? Leonardo Martinelli da Parigi, buongiorno, come viene vissuta la vicenda Oltralpe? Ma con molta indifferenza, sinceramente, perché oggi non ci sono giornali in edicola, perché ieri c'era uno sciopero nazionale in Francia, però le radio, le televisioni riportano un po' distrattamente questa notizia, non ci sono state reazioni ufficiali dell'Eliseo né del Ministero della Giustizia. Sembra quasi ci sia un po' di coda di paglia da parte dei francesi, che in un certo senso si fecero scappare appunto Battisti nel 2004. D'altra parte, da quando la vicenda Battisti è ritornata d'attualità, in Francia se ne parla molto poco, e tutti gli intellettuali, soprattutto di sinistra, che nel 2004, fino al 2004, si erano detti contrari appunto a un'estradizione di Battisti verso l'Italia, sono rimasti muti, a parte Bernard-Henri Lévy. Grazie allora al nostro Leonardo Martinelli. Noi continuiamo a parlare di questa vicenda con il commento di Daniela Biacchessi. Cosa c'entrano i servizi segreti francesi con un ex terrorista italiano, Cesare Battisti, sul cui capo pendono vari ergastoli per 4 omicidi rivendicati dai proletari armati per il comunismo negli anni 70? La lotta al terrorismo, si sa, si muove spesso lungo la linea sottile tra legalità e illegalità, in operazioni di copertura non sempre trasparenti. Già in passato le vie di fuga di terroristi italiani responsabili di fatti gravissimi come stragi e omicidi sono state indicate dalle barbe finte. È accaduto per i casi di Guido Giannettini, indiziato per Piazza Fontana e fatto fuggire dal SID in Spagna, Carlo Di Giglio, l'armiere del gruppo di Ordine Nuovo, Uccel di Bosco per anni a Santo Domingo, Delfo Zozzi, ora in Giappone, ricercato dalle autorità per la strage di Piazza della Loggia a Brescia, e Alessio Casimiri, uno degli uomini del rapimento Moro, ormai radicato in Nicaragua. Ma gli uomini dei servizi segreti, le orecchie degli apparati dello Stato, dovrebbero catturare i latitanti, non fornire loro protezione. E Cesare Battisti, per lo Stato italiano, è formalmente un latitante. A lui le autorità investigative italiane vorrebbero chiedere anche i patti della sua rocambolesca fuga dall'Italia alla Francia, al Brasile, passando per Spagna, Portogallo, Madeira, Capo Verde, e tutte le protezioni a lui concesse da istituzioni dell'intelligence europeo. Chiudiamo questa parte con una storia, una bella storia che arriva dal mondo arabo. Avete visto il film The Millionaire, uscito in Italia diverse settimane fa? Raccontava e racconta la storia di un ragazzo indiano con un passato di violenze subite e povertà che partecipa al gioco televisivo Il Milionario e riesce a rispondere correttamente a tutte le domande, fra la meraviglia di tutti e l'invidia di alcuni. Ebbene, c'è una storia simile in Arabia Saudita, in questo caso la concorrente è una poetessa. Mi hanno imposto il burka, ma io sono libera come un uccello. Con questo verso Aida, una giovane donna saudita con il volto coperto, è riuscita ieri ad arrivare alla fase finale di un seguitissimo show televisivo arabo. Minacciata di morte dalla sua tribù, che non supporta che la sua voce sia sentita dagli uomini, ma forte dell'appoggio di suo marito, Aida sfida la tradizione. Con voce incantevole e versi raffinati, scrive oggi la stampa, la donna, spinta da una valanga di sms del pubblico, rischia di vincere il premio di 1 milione di euro del concorso TV. Ogni giovedì, prima di iniziare i suoi versi, nascosta nel suo velo nero e guardando verso il compagno seduto in platea, dice queste parole: con rispetto, con gratitudine e con amore mi inchino al più coraggioso tra gli uomini, mio marito. Adi Fatali, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Ci sono prove di un traffico di organi di minori in Italia, a dirlo è il ministro dell'Interno Roberto Maroni durante l'assemblea annuale dell'UNICEF. Cala l'occupazione nelle grandi imprese, meno 2,1% nel mese di novembre, la flessione più consistente dal novembre 2002. Parallelamente c'è stato il boom di ricorsi alla cassa integrazione, in questo caso il primato è dal 2000. Inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, dice: le intercettazioni telefoniche costano, ma sono strumenti di indagine essenziali. Il primo presidente della Cassazione, Vincenzo Carbone, citando un rapporto della Banca Mondiale, punta il dito sui processi civili. In Italia sono più lenti che in Africa. Nell'ultimo rapporto del 2009 in tema di processo civile, i paesi europei sono tra i primi 50, la Spagna è l'ultima al 50° posto. Purtroppo l'Italia è al 156° posto su 181, dopo Angola, Gabon, Guinea, Sao Tomé e prima di Djibouti, Liberia, Sri Lanka e Trinidad. Non possiamo andare avanti così. Berlusconi: sul caso Battisti non lasceremo nulla di intentato sul fronte giuridico. La mancata estradizione, precisa il premier in una nota, non deve però danneggiare gli eccellenti e amichevoli rapporti bilaterali fra Italia e Brasile. Partiranno con 15 minuti di ritardo le partite di campionato. La decisione è stata presa dalle associazioni di calciatori dopo la squalifica per un anno di Mannini e Possanzini, arrivati in ritardo ad un controllo antidoping. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in tarda mattinata il decreto legge sulle quote latte, presentato dal ministro delle politiche agricole, Luca Zaia. E ora andiamo in Svizzera, a Davos. Da due giorni si sta svolgendo il World Economic Forum, una riunione con capi di Stato e di Governo, 16 ministri degli esteri, 17 ministri delle finanze, 20 ministri del commercio, 1400 amministratori delegati e altri dirigenti delle più grandi multinazionali mondiali. Insomma, si fa il punto sullo stato dell'economia mondiale. Ieri è stato il giorno di Giulio Tremonti. Ciò che è necessario al nostro sistema, ha detto il ministro, è più regolamentazione per uscire da questa anarchia finanziaria. Servono più regole, ha detto Tremonti, e non più capitali. E ha parlato anche della necessità di riformare welfare e pensioni. Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore a Davos, buongiorno. Oggi, per quanto riguarda il fronte italiano, è il giorno di Mario Draghi ed è tornata a parlare Emma Marcegaglia. Vittorio. Sì, esattamente. Oggi è la giornata della presidente della Confindustria, che proprio questa mattina al breakfast dedicato al nostro paese ha detto che occorre un contratto unico di lavoro per tutti i dipendenti che preveda tutele graduate in relazione all'anzianità dei dipendenti, cioè quando si è neoassunti si avrebbe un contratto più flessibile e mentre quando si avanza con l'età e l'esperienza si otterrebbero maggiori tutele. Questa è un po' l'idea lanciata appunto da Emma Marcegaglia durante appunto il World Economic Forum di Davos: più potere ai giovani. E sul fronte di Draghi è previsto per il pomeriggio l'intervento, Vittorio? Sì, esattamente. Adesso sono riuniti una ventina di governatori centrali provenienti da tutto il mondo, dalla Brasile alla Turchia, Russia, Europa, cioè naturalmente anche Jean-Claude Trichet. Mario Draghi in questa riunione a porte chiuse, dove appunto stanno discutendo di crescita economica e di quale risposte dare alla situazione, alla crisi. I temi che si stanno un po', diciamo, trattando sono il ritorno anche dello Stato nell'economia, che possa aiutare appunto a superare il momento di difficoltà, il ritorno della politica e dei politici nell'economia, che tipo di banca sarà quella del futuro, perché quella vecchia ormai ha segnato dei colpi molto gravi e quella nuova ancora non si intravede, perché non si può tornare semplicemente al passato. Il rischio protezionismo, e la domanda di fondo è: chi sostituirà il consumatore americano come driver di tutta l'economia, perché oggi il consumatore americano è indebitato e quindi manca questo motore di sviluppo per tutto il sistema globale. Grazie allora a Vittorio Darold, collegato con noi da Davos, e sempre a Davos, da Davos abbiamo in diretta Lino Terlizzi. Lino, al di là appunto delle questioni italiane, abbiamo visto la Marcegaglia, oggi pomeriggio parlerà Mario Draghi, su che cosa si sta concentrando l'attenzione al World Economic Forum? Oggi è l'Europa di scena, era prevista la cancelliera Merkel già stamattina, è stato rinviato al primo pomeriggio il suo intervento. Nel frattempo il premier britannico Gordon Brown ha parlato, ha messo anche lui la sua parte contro il protezionismo, ha detto no a nuove barriere, azione comune contro la crisi, ha parlato dell'importanza ancora del G20 previsto, come noto, all'inizio di aprile a Londra, e ha detto il 2008 è stato l'anno del fallimento di un certo tipo di mercato finanziario globale, il 2009 potrebbe essere invece il mondo unito per trovare una soluzione con nuovi assetti. Grande attesa per la Merkel, dunque, Lino, ma ieri c'è stato anche un fatto particolare, uno scontro diplomatico, se vogliamo, tra Shimon Peres, il capo dello Stato israeliano, e il premier turco Erdogan. Il tema Gaza, che cosa è successo esattamente, Lino? È successo che in un dibattito a più voci, in cui appunto erano presenti sia Peres che Erdogan, Peres, rispondendo anche ad alcune affermazioni e ad alcune critiche, ha elevato i toni del dibattito in modo molto caldo, in modo molto forte, ha preso il microfono e a voce alta ha difeso la posizione di Israele e ha anche rivolto al premier turco Erdogan delle domande dirette abbastanza di peso, perché sulla questione di Gaza Gaza, ha detto cosa fareste voi in sostanza se ci fossero dei bombardamenti sul vostro territorio turco. Erdogan ha chiesto di poter intervenire dopo questo lungo intervento di Peres, il moderatore gli ha accordato solo un breve intervento, lui è riuscito a dire qualcosa contro la posizione israeliana, ha ricordato i bombardamenti che hanno ucciso anche bambini a Gaza, ma poi gli è stata tolta la parola e a quel punto Erdogan si è molto arrabbiato e se n'è andato. Poi ha precisato che la sua arrabbiatura non era tanto e soltanto contro Peres ma anche contro il moderatore, tant'è vero che ha detto non so quando e come tornerò a Davos. Oggi è stato accolto in Turchia come una sorta di eroe per queste sue affermazioni, per questa sua presa di posizione, e comunque poi sia Peres che Erdogan hanno cercato privatamente di abbassare i toni, ma intanto la frittata era fatta. Grazie allora a Lino Terlis in collegamento con noi in diretta da Davos. Abbiamo sentito problemi diplomatici, ma anche ovviamente si discute tantissimo di economia mondiale, e oggi gli occhi sono puntati anche su un altro paese, Simone. Sì, sono puntati sul Giappone che affronta delle difficoltà pesantissime. L'azienda Giappone va in profondo rosso. La raffica di bilanci aziendali annunciati oggi segnala che la recessione si aggrava, non risparmia nessun settore e si accompagna a un aumento record della disoccupazione dal 3,9 al 4,4% e a un calo record del 9,6% della produzione industriale a dicembre. Sono in rosso banche come Mizuho, case farmaceutiche come Daiichi Sankyo, società di intermediazione finanziaria come Daiwa, mentre si è appreso che le perdite della casa automobilistica Toyota saranno molto più ampie del previsto e la Honda oggi ha rivisto al ribasso per la quarta volta le sue stime sugli utili. Particolarmente colpito il settore dell'elettronica, che ha guidato oggi il ribasso del 3,12% dell'indice di borsa. Hitachi ha annunciato che accuserà forti perdite e che taglierà fino a 7.000 posti di lavoro. In rosso anche Fujitsu e NEC, mentre è emerso che Toshiba intenderebbe fondere le pericolanti attività nei semiconduttori con quelle della stessa NEC. È crollata in borsa anche Nintendo dopo l'allarme utile di ieri, ma almeno Nintendo, con i suoi videogiochi, è l'unica a prevedere ancora utili operativi record per l'esercizio in corso. Stefano Carrer, GR24, Sole 24 Ore, Tokyo. In Europa uno dei paesi che ha grandissimi problemi economico-finanziari in questo momento è l'Islanda. Giulia Crivelli, quale quotidiano ne parla oggi e perché? Il Guardian è il quotidiano britannico che ha seguito molto da vicino la vicenda dell'Islanda, perché fino a poco tempo fa ricordo articoli proprio sulla stampa britannica che descrivevano l'Islanda come un piccolo paradiso e poi abbiamo scoperto che era un paradiso con basi molto fragili. E ora il Guardian titola: l'Islanda avrà una fast track, cioè una corsia preferenziale per entrare nell'Unione Europea. Probabilmente diventerà un membro, scrive il Guardian, entro il 2011 e questo potrebbe poi, per il 2011 speriamo che i problemi finanziari dell'Islanda siano risolti, però naturalmente se il ragionamento è se fosse stata nell'Unione Europea già da tempo, forse tutto quello che è successo sarebbe stato, se non altro magari, tamponato con un maggiore anticipo rispetto a quello che è successo, che è stato una vera bancarotta dello Stato, dove è intervenuto poi il Fondo Monetario Internazionale. A proposito di difficoltà degli Stati, Giulia, la Spagna che viene da una tumultuosa crescita economica e dopo questa tumultuosa crescita si trova, diciamo, in particolare difficoltà. In questo la Spagna è abbastanza simile a noi, nel senso che anche la Spagna ha un apparato statale molto importante. Naturalmente gli stipendi degli statali sono tra i pochi stipendi che almeno per ora, finché resiste uno Stato organizzato in questo modo, non vengono toccati. E però El Mundo, quotidiano vicino alle posizioni dell'opposizione, quindi del centrodestra spagnolo, sottolinea che ormai l'apparato è cresciuto a dismisura, forse perché anche Zapatero ha cercato il consenso. È successo, succede spessissimo che si cerchi il consenso elettorale anche producendo nuovi posti di lavoro nella macchina statale. Però questi impiegati statali sono arrivati a 3 milioni di persone, che sono veramente tante, perché naturalmente appesantiscono non solo la burocrazia ma naturalmente le casse dello Stato, perché a tutti deve essere pagato un giusto stipendio. Grazie Giulia Crivelli con la rassegna stampa internazionale, ci risentiamo naturalmente lunedì. Intanto c'è una notizia che riguarda gli italiani ma che arriva dalla Gran Bretagna. Sì, c'è una protesta in corso per una raffineria della Total. una protesta iniziata mercoledì scorso per la scelta da parte della compagnia petrolifera francese dell'impresa italiana Irem per la costruzione di una nuova raffineria, un appalto da 220 milioni di euro e l'uso di operai italiani e portoghesi. Ebbene, gli operai della zona inglesi stanno protestando per questa scelta e a quanto pare la protesta si sta estendendo a tutto il Regno Unito. Centinaia di lavoratori britannici hanno incrociato le braccia a Grangemouth in Scozia, a Wilton nel nord-est dell'Inghilterra e ad Abertow nel sud del Galles. E ora i consigli del nostro gastronauta su dove mangiare bene. Per una serata gastronomica davvero di eccezionale qualità, il consiglio è andare all'osteria della Francescana a Modena, dove troneggia Massimo Bottura, un giovane chef italiano ormai famosissimo a livello internazionale. Potete trovare il tortello di zucca. Ebbene, è un tortello di zucca molto particolare, con un procedimento molto lungo, però il sapore in bocca è sicuramente piacevolissimo e specialmente a chi non ama il dolce dolce è il tortello adatto. Anche il tortello con il cotechino, secondo me col cotechino come ripieno, attenzione, è un altro piatto sicuramente da assaggiare. E ancora un grande secondo piatto, il germano arrostito, ma anche qui ci sono cotture molto particolari. Massimo Bottura è noto per queste cotture che rendono il cibo sicuramente più piacevole. C'è soprattutto come antipasto un prodotto molto semplice da assaggiare per chi ama la mortadella, la spuma di mortadella. GR Extra Large, queste sono le notizie della giornata. Ci sono evidenze di traffico di organi di minori in Italia, a dirlo il ministro dell'Interno Roberto Maroni durante l'assemblea annuale dell'UNICEF. Cala l'occupazione nelle grandi imprese, meno 2,1 nel mese di novembre, la flessione più consistente dal novembre 2002. Parallelamente c'è stato il boom di ricorsi alla cassa integrazione, in questo caso il primato dal 2000. Inaugurazione dell'anno giudiziario, il primo presidente della Cassazione Vincenzo Carbone punta il dito sui processi civili, in Italia sono più lenti che in Africa e parla anche di intercettazioni. Il problema delle intercettazioni. Il principale problema risiede nella loro abnorme e poco giustificata reiterazione nel tempo. Dovrebbero essere vietate le proroghe se nel periodo inizialmente stabilito non si sono raggiunti risultati apprezzabili, tranne casi eccezionali rigorosamente motivati. Risulterebbe poi utile l'istituzione di un archivio riservato, accessibile sia dal PM che dal difensore. Andrebbe inoltre contrastata la prassi di trascrivere nei provvedimenti giudiziari pagine e pagine di inutili intercettazioni, invece di chiamarle per relazione, lasciandole riservate. Le solo parti ritenute necessarie motivando la rilevanza in relazione al processo in corso. E intanto su questo interviene anche il procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, che dice le intercettazioni telefoniche costano, ma sono strumenti di indagine essenziali. Berlusconi sul caso Battisti: non lasceremo nulla di intentato sul fronte giuridico, ma la mancata estradizione, precisa il premier in una nota, non deve danneggiare gli eccellenti rapporti amichevoli con il Brasile. Partiranno con 15 minuti di ritardo le partite di campionato domenica prossima. La decisione è stata presa dalle associazioni di calciatori dopo la squalifica per un anno di Mannini e Possanzini, arrivati in ritardo ad un controllo antidoping. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulle quote latte, presentato dal ministro delle politiche agricole Luca Zaia. Una dichiarazione del ministro degli interni Maroni colpisce. Abbiamo delle evidenze di traffico di organi di minori in Italia. Laura Bettini, ci puoi aggiornare? Sì, queste appunto le dichiarazioni che ha fatto il ministro dell'interno Maroni intervenendo oggi all'assemblea annuale dell'UNICEF a Roma. Non ha dato ulteriori precisazioni il ministro, ma ha aggiunto: per contrastare il fenomeno uno dei mezzi più efficaci che useremo sarà l'attuazione di un accordo internazionale, il trattato di Prum, che istituisce in Italia la banca dati nazionale del DNA, come anche negli altri paesi europei. Potremo così contrastare meglio il fenomeno con questi strumenti, ha detto il ministro Maroni. Non è questo, per la cronaca, la prima volta che si parla di traffico di organi e traffico di bambini in Italia. Ci sono già state numerose inchieste in proposito in passato e l'Italia è risultata purtroppo essere un crocevia in questo traffico. traffico, un paese anche di transito in particolare. Gran parte dei minorenni che spariscono dai paesi più poveri, soprattutto dell'est Europa, infatti transiterebbero per l'Italia per poi essere condotti altrove per il loro viaggio nell'orrore, potremmo dire. Vedremo poi quali altri sviluppi avrà questa dichiarazione del ministro Maroni. Per ora vi restituisco la linea. Grazie Laura Bettini. Noi adesso parliamo delle dichiarazioni di un altro ministro, quello delle politiche agricole, Luca Zaia. Sì, ha presentato un provvedimento con il quale promette di risolvere la questione delle quote latte. A Palazzo Chigi c'è Andrea Viali. Andrea, è stato approvato o non è stato approvato il provvedimento? Sì, il provvedimento è un decreto ed è stato approvato, come dicevate è stato presentato dal Ministro delle Politiche Agricole, è un decreto che riguarda una vicenda, quella delle quote latte, che si trascina ormai da 25 anni e che soltanto nella stagione del 2007-2008 è costata all'Italia oltre 160 milioni di multe da parte dell'Europa. Il decreto arriva dopo un accordo con le autorità di Bruxelles che è stato siglato il 20 novembre scorso e che ha attribuito all'Italia 620.000 tonnellate di produzione in più per un valore di mercato che è pari a circa 240 milioni di euro. Il via libera dal Consiglio dei Ministri è arrivato da pochi minuti e a breve è attesa, prevista una conferenza stampa del ministro Zaia che illustrerà i contenuti di questo decreto e ovviamente ve ne daremo conto nelle prossime edizioni di TR24, per ora direi che da qui è tutto. Grazie Andrea Viali, noi ora ci spostiamo a Venezia. Sì, dove nasce un ristorante low cost, si chiama La Basilica, è a due passi da Piazza San Marco e aprirà i battenti lunedì, ma il vero dettaglio particolare è che l'idea è della Curia. E allora diamo il buongiorno a Monsignor Antonio Meneguolo, delegato patriarcale per i beni culturali e per la Basilica di San Marco. Buongiorno Monsignore. Buongiorno. Allora, innanzitutto ci spieghi quanto ci verrà a costare un pranzo in questo ristorante alla Basilica che abbiamo definito low cost? Allora, diciamo che il prezzo base sarà 12,50 euro o 13 a seconda, in maniera tale da poter consentire a chi usufruisce di ticket restaurant di avere un pasto normale, un primo e un secondo. Ma in questo ristorante che abbiamo detto si aprirà lunedì, in realtà qualcuno ci ha già cenato, pranzato, insomma è stata fatta una sperimentazione, no? Beh, diciamo che ieri c'è stata un'inaugurazione offrendo gratuitamente un dessert a tutti coloro che volevano venirlo a visitare, in particolare con il personale dipendente della Curia, i sacerdoti e quelli che lavorano attorno alla Basilica di San Marco. Poi verrà aperto anche a tutti gli avventori, a cominciare dai frequentatori più abituali, che potevano essere i gondolieri o i turisti. Monsignor Meneguolo, qual è il menù? Chi è lo chef? Ci racconti un po' di cose, insomma. No, la Curia ha affidato, meglio, la Procuratoria per la Verità, cioè l'organo che amministra la Basilica di San Marco, ha affidato la gestione ad una società guidata dal ragionier Piscella, si chiama GSG, che a sua volta si serve di una ristorazione organizzata e saranno previsti 5 primi fissi e 5 secondi fissi con 2 variazioni in aggiunta per ogni giorno. Ecco, i ristoratori della zona però come hanno reagito? Si sa, il centro di Venezia si sono presi piuttosto alti. Immediatamente la preoccupazione che ci fosse una concorrenza sleale è serpeggiata, anche forse un po' amplificata dalle notizie di stampa. In realtà anche i ristoratori vicini sono venuti a trovarci, abbiamo scambiato qualche idea di cortesia e sono tranquilli perché effettivamente il nostro servizio si rivolge prevalentemente a quelle persone che vengono in pellegrinaggio alla Basilica di San Marco e vogliono trovare un'accoglienza e un ristoro che possa essere adeguato alle loro esigenze. Gli altri hanno un altro target di utilizzazione, molte volte sono gruppi già organizzati che hanno il loro circuito. Bene, grazie a Monsignor Antonio Meneguolo, che non se ne avrà se lo affianchiamo, diciamo così, ad una storia di costume e televisione, perché parliamo di una vicenda avvenuta ieri al Chiambretti Night, dove Monsignor Emanuele Milingo, vescovo scomunicato ed esorcista, era andato per parlare del matrimonio del sacerdote e soprattutto del diavolo, ma a rubargli la scena è stata la moglie Maria Sung, che è salita sul palco per portarlo via arrabbiata per la danza del ventre di una ballerina davanti a lui. Allora sentiamo in 30 secondi cosa è successo. Durante la pubblicità c'è stato un piccolo come lo possiamo chiamare, inconveniente, un misunderstanding. La signora ancora tenta di entrare in studio durante la diretta e ci dispiace vedere questa scena. No, venga, va, ascolta. Picchia! No, non è successo nulla. Buon signor, scusa. È un momento, è un fuori programma in diretta, anch'io come conduttore mi trovo in forte difficoltà in questo momento, spero che la fede ci venga in soccorso. Buon signore! Parliamo dopo. Devo uscire dopo! Ed è tutto per questa edizione della GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco. E da Simone Spezia. In regia Peter Bescapè, al coordinamento Daniele Biacchessi. Il prossimo giornale radio è alle 15, il GR Extra Large invece torna lunedì alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.